America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Roma, Mario Platero. My country has faced a military aggression of a neighboring country. This aggression has no reasons and no grounds. Arseniy Yatsenyuk, il presidente dell'Ucraina, chiede alle milizie dell'Ucraina di disarmarsi. Sono le milizie che avevano partecipato alle rivolte di piazza che hanno portato alla caduta del governo favorevole a Mosca. Questo disarmo è chiave. Alain Rémy, l'ambasciatore francese a Kiev, ha detto che è l'elemento chiave appunto per consentire che ci siano degli aiuti da parte dell'Unione Europea. Dovrà avvenire entro oggi, oggi anche la scadenza per il legame fra Ucraina e Unione Europea. Ci sarà questo disarmo? Ma è un grande punto interrogativo. Chiaramente le verifiche saranno difficili. Io credo che comunque gli aiuti andranno avanti lo stesso. L'Ucraina ne ha bisogno. La situazione è troppo complessa per abbandonare Kiev. I expect Russia to be transparent about these activities. Chuck Hagel, segretario alla difesa americano, si è incontrato con Sergei Shoigu, il ministro per la difesa russo, un incontro importante sul piano simbolico. Sappiamo che poi la Russia continua a fare quello che vuole. Lui ha semplicemente detto che le truppe russe sono in Crimea semplicemente per delle esercitazioni e che non ci sarà alcun pericolo di attacco contro l'Ucraina orientale. Questo non rientra negli obiettivi della Russia. La Russia ha detto molte cose, non sempre, come sappiamo, le ha rispettate. The United States is today moving, as we said we would, to impose additional costs on Russia. Barack Obama, il presidente Barack Obama, questo invece è una notizia di ieri, ha imposto nuove sanzioni sulla Russia, sanzioni ovviamente economiche. Il presidente ha detto, io sono costretto a imporre queste nuove sanzioni sull'economia, non avremmo voluto farlo perché il danno economico ci sarà non soltanto per la Russia ma per l'intera economia globale. Questa non è la nostra scelta preferita, ma i principi di fondo che regolano la comunità internazionale debbono essere rispettati, inclusi il rispetto della sovranità e della integrità territoriale. Come ha risposto la Russia? Ha imposto un veto all'ingresso del presidente della Camera, John Boehner, a Mosca. Di nuovo, non è che Boehner avesse in programma un viaggio immediato, ma è una risposta ad altre misure che aveva preso l'America, che aveva bloccato tutta una serie di potenziali visti d'ingresso per alti funzionari russi. Insomma, questo per dire che l'escalation continua. Obama ha aggiunto, e questo da un punto di vista un po' più aggressivo, qui passiamo dalle sanzioni economiche alla minaccia politico barra militare, ha detto che l'appoggio degli Stati Uniti alla NATO resta totale, siamo legati dall'articolo 5. L'articolo 5, come sappiamo, è l'impegno per ciascun membro della NATO a difendersi l'uno con l'altro in caso che si sia sotto attacco. Ora, l'Ucraina non fa parte della NATO, ma ci sono altri paesi vicini che potrebbero rischiare un attacco, qualcuno dice, da parte della Russia, che invece fanno parte della NATO. Dunque Obama in questo ha preso una posizione molto precisa. Quali sono questi paesi? I Baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, tra l'altro è molto interessante perché sono paesi che hanno comunque una percentuale non secondaria di popolazione russa, il 25, il 27, il 23%, a seconda dei casi. The challenges of Crimea must be dealt with in the respect of Ukrainian unity and sovereignty. Ecco, questo insieme di dichiarazioni di Obama, queste notizie giungono al momento in cui il presidente americano sta per arrivare in Europa. Dobbiamo dunque chiederci come reagirà l'Europa. Ci sarà un incontro del G7 all'Aia, un incontro importante in cui si riaffermeranno delle posizioni dure nei confronti della Russia, delle posizioni che punteranno all'isolamento russo. Certo, l'Europa ha un problema, se si chiudono i corridoi energetici che legano la Russia al vecchio continente, beh, possono esserci davvero dei problemi per tutti. La Germania cercherà di evitare che l'escalation continui. Barack Obama ha lasciato comunque aperta la porta diplomatica per il negoziato, per il dialogo, per cercare di dare un contesto di legalità a questo passaggio della Crimea dall'Ucraina alla Russia. Ma Mosca, Putin, per ora continuano a mantenere una linea molto dura. Comunque Barack Obama, dopo il vertice dell'AIA, Barack Obama arriverà all'AIA lunedì mattina, un vertice nucleare, ci sarà, come vi dicevo, il G7, dopo questo vertice andrà a Bruxelles, mercoledì sarà a Bruxelles e poi giovedì verrà a Roma, dove chiuderà forse in maggiore tranquillità il suo incontro prima col Papa, poi col Presidente della Repubblica Napolitano e poi col Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vi dicevo, chiuderà questa sua tappa europea con un giro al Colosseo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee di cui potremmo parlare, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come vi ho detto, sono a Roma perché mi sto preparando a seguire questo viaggio del presidente Barack Obama in Europa, un viaggio importante. Ma mentre Obama è in Europa, sua moglie Michelle Obama è in Cina, si incontra questa sera con Ping Yuan, che è la first lady cinese. Vi dicevo, ha con lei le figlie Malia e Sasha, e c'è anche la madre, Mrs. Robinson, come chiamata alla Casa Bianca. Dunque, in onore di Mrs. Robinson, vi faccio ascoltare un grande classico di Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.